L'opera è intitolata non da Van Eyck, ma da chi verrà dopo Van Eyck, Madonna in una chiesa gotica. È un'opera che inizia proprio a scardinare il concetto italiano di pala d'altare, per una serie di motivazioni. Mi scusi, possiamo avviare al... Oh mio Dio! Possiamo anche spegnere un po' di luci, non tutte, vi prego, però qualcuna si può spegnere. Sì, altrimenti me la racconto da sola, vedendola benissimo solo io. Non c'è motivo. Anche un'altra? Là. Va bene così? Forse anche tutte, proviamo? Sì, anche tutte. Sì. Ce la facciamo così. Il primo che dorme lo dica, eh? Ditemi voi, con i vostri occhi, che cosa vedete di diverso secondo quella che noi ci aspetteremo come pala d'altare o come tavola che viene concepita per essere collocata sopra un altare. Cosa c'è di diverso? Non è in trono. Primo, la Madonna non è in trono. La prospettiva. Prospettiva in che senso? Ma questa diagonale così che non è centrale. Per cui abbiamo proprio un taglio volutamente laterale. Sono già due elementi cardine, vero? Per un'immagine che poi vada collocata. Manca la cerchia dei fedeli. Manca un entourage, fedeli, donatori e quant'altro. Incoronata. Angeli, angeli, eccetera. È coronata, poi la vediamo proprio nel dettaglio questa corona. Come altezza sarà sproporzionata rispetto alla prospettiva? Paurosamente sproporzionata. Poi non guarda negli occhi il fedele, assolutamente. Anche il bambino. Non guarda neanche il bambino. Cioè abbiamo una serie di elementi che a colpo d'occhio, senza nemmeno aver approfondito, ovvero nel dettaglio, l'arte fiamminga, ce la discostano da quella che è la nostra tradizione, chiamiamola così. Per cui non abbiamo una Maria centrale, nel senso proprio di inquadratura prospettica, non è il punto focale della tavola. Non guarda di fronte a sé, non guarda il bambino, che sono le due possibilità classiche, diciamo, no? Di Maria. E se notate, la sua posizione, tra l'altro, non è frontale, per cui non è solo la prospettiva ad essere con un taglio laterale. Lei stessa è quasi di tre quarti. Per cui è una situazione fortemente anomala rispetto ai nostri canoni. E anche qui. È Van Eyck che inventa tutto questo o Van Eyck estrapola questo da qualcos'altro? Questo è un dubbio che ci resterà sempre, perché finché non si troverà uno scritto di Van Eyck che ci spieghi nei minimi dettagli quello che abbiamo davanti, dovremmo sempre dire che procediamo per ipotesi, non abbiamo certezza. Che cosa determina tutto quello che voi avete visto in queste differenze? Prima di tutto vi dicevo questo modo di lavorare sui punti focali, sulla prospettiva di cui si diceva la settimana scorsa. E qui capite che io mi immagino un punto focale che è assolutamente fuori dalla tavola. Altrimenti io non riesco ad avere una costruzione prospettica di questo tipo. Ho un cono tronco nel cannocchiale prospettico e è stato troncato sia nella fuga, diciamo così, sia nell'immagine, per cui è un taglio sia per quel che riguarda la costruzione proprio rispetto al fuoco, sia per quanto riguarda l'inquadratura dell'immagine che ho di fronte. In pratica è come se io mi ritrovassi davanti un'opera che è stata concepita, di solito ve lo sapete, io non so disegnare, in questo modo, ma prevedesse una sorta di doppio, dove il punto focale sta fuori, ma fuori tanto. In questo modo io vado a costruire un certo tipo di prospettiva. Quest'altra tavola, di cui non abbiamo traccia, non c'è la commessa, è solo, diciamo, un'ipotesi che ci diamo noi. Perché? Perché io ho soltanto metà della navata centrale della chiesa. Per poter avere una visuale completa, io avrei necessità di avere specularmente da quest'altra parte la stessa situazione. Allora avrei il canale prospettico, il cannocchiale prospettico al quale la nostra tradizione fiorentina ci ha abituati. Così è come se ci mancasse proprio metà superficie pittorica. Capite che stupisce noi che abbiamo visto di tutto e di più, figuratevi i contemporanei. Eppure quest'opera, a differenza di altre di cui parleremo, che suscitarono scandali, rifiuti e quant'altro, venne assolutamente ben accolta. Anzi, studiata e apprezzata, non come un'anomalia, ma come una novità interessantissima. La sproporzione che noi vediamo tra Maria e l'architettura, invece, non era affatto una novità. Deriva proprio dalla tradizione medievale. Il fatto di dare una dimensione maggiore, non necessariamente proporzionata, proporzionale, non so, 1 a 3, o meglio 3 a 1 o 5 a 1, questo non era necessario, al soggetto principale. Tanto più importante il soggetto, tanto maggiore sarà la sua dimensione. Perché? Perché la dimensione del soggetto è intimamente legato alla parte interiore del soggetto, alla spiritualità del soggetto, qualora sia un soggetto sacro, alla gerarchia, qualora fosse, che so, un imperatore. Per cui non erano sproporzioni dovute ad un'incapacità o ad una non conoscenza tecnica proprio dell'ambito prospettico, quanto piuttosto aver seguito un parametro diverso. Chi è più importante è più grande, perché maggiore è la sua intimità, la sua interiorità, la sua forza, la sua intelligenza. Ecco che ciò che è peculiare di quel soggetto, io artista lo metto in mostra attraverso le dimensioni. Tanto più merita stima, per tutta una serie di motivi, o venerazione, tanto più grande sarà. Ecco che questa sproporzione, che ai nostri occhi è anomala, non lo era affatto agli occhi di un uomo del 1400, perché veniva già da una tradizione che a livello iconografico l'aveva proprio abituato a queste gerarchie. E guardate che questo, forse già l'abbiamo accennato la settimana scorsa, era iniziato dall'avvento dell'arte costantiniana. Per cui se noi andiamo a prenderci, per esempio, i rilievi dell'arco di Costantino, nelle sezioni che appartengono all'epoca di Costantino, e quindi siamo nel primo ventennio del 300 dopo Cristo, ci ritroviamo ad avere l'immagine, per esempio, dell'imperatore molto più grande rispetto al Senato e il Senato più grande rispetto al popolo, pur dovendo a livello prospettico avere tutti la medesima dimensione. Guardate che quella è una sproporzione voluta, che dipende proprio da una serie di testi che gli artisti presero a modello. testi letterari, filosofici, che presero a modello per queste, diciamo, apparenti discrepanze. E tutto l'Alto Medioevo se ne appropriò e proprio le applicò in modo proprio regolare, nel senso di regola canonica, alle figure in tutta l'arte, che sia pittorica, musiva, che sia anche scultorea. A dimensione maggiore corrisponde maggiore importanza. Ecco che il 400 fiammingo non fa altro che portare avanti questo tipo di tradizione. Anzi, se ci pensate, conservare questo tipo di tradizione non fa altro che attirare maggiormente il mio occhio sulla discrepanza che c'è tra questa Maria e tutto lo schema architettonico che Maria trova alle proprie spalle. Perché in una costruzione così dettagliata e così attenta, noi ci aspetteremmo proporzionalmente una Maria con misure diverse. Che tipo di stile abbiamo? Siamo inseriti, appunto, ce lo dice già il titolo, in una chiesa gotica. Chiesa gotica, se notate, incredibilmente chiara e priva di apparati coloristici. Qui noi ci ritroviamo a non avere nemmeno un arazzo alle pareti. Oh, ha deciso di fare tutto da solo un po'. Ecco. Non abbiamo arazzi alle pareti, cosa che invece dalla tradizione sappiamo avrebbero dovuto essere presenti, che venivano anche sostituiti a seconda dei momenti dell'anno liturgico. Non abbiamo statue dipinte, se notate, per cui quanto noi vediamo in questa architettura, le statue collocate sopra le colonne, le statue ubicate all'interno delle nicchie, sono tutte monocrome. Guardate che questa è un'anomalia. Questa è una libera interpretazione di Van Eyck, perché non esiste nulla che appartenga al gotico in questo periodo storico, per cui nel 1400, che non fosse policromo. E questo, capite bene, ai nostri occhi, abituati invece a vedere chiese assolutamente bianche e candide, no? Anche se noi oggi ci recassimo, che so, a Notre Dame a Parigi, noi ci ritroveremo ad avere statue chiare, ci ritroveremo ad avere la totale assenza di arazzi, la totale assenza di stendardi, cioè noi ci ritroveremo ad avere la struttura architettonica asettica, come se fosse ancora un cantiere aperto. Guardate che questo ha delle colpe nel neoclassicismo. Fu il neoclassico a indurre il gusto a cambiare e a portare proprio gli storici dell'arte a richiedere la pulitura delle opere, la spazzolatura delle statue che erano policrome, andando a farci perdere tutto quello che invece era il patrimonio coloristico medievale incredibilmente acceso e vivace. Per cui quello che avete di fronte non è corretto, è anomalo, ma ha un suo perché. Perché Van Eyck sta contemporaneamente lavorando anche su opere che sono monocrome. E lo fa come memoria di una tradizione che parte da Giotto, o che meglio, Giotto porta avanti. Cappella degli Scrovegni, famosissima per il suo soffitto dipinto come se fosse naturalistico, no? Un cielo stellato. Famosissima per tutto il ciclo che Giotto dedica alla vita di Cristo. famosissima per il giudizio universale che ha in controfacciata. Tutta la parte coloristica, diciamo dallo zoccolo in su, è quello che ci resta nella memoria in modo maggiore. Ma se noi riguardassimo la Cappella degli Scrovegni, dimenticandoci per un attimo di tutta la parte superiore che tutti studiamo, e scendessimo nello zoccolo dove abbiamo le panche, dove gli ospiti della famiglia Scrovegni seguivano messa, perché guardate che è una cappella privata, era una cappella privata, noi avremo tutta una sequenza di monocromi a seppia, che non sono altro che i vizi e le virtù. E guardate che non è improbabile che anche in Cappella Sistina ci fosse questo, prima di tutta una serie di vari interventi. Questa è memoria della tradizione scultorea, una tradizione che era decorativa ma non a livello alto. Era anche memoria di tutte quelle statue legate ai riti cimiteriali, ai riti funebri, che non venivano dipinte perché servivano per un attimo e che poi sarebbero state bruciate sulla pira insieme al defunto. Di conseguenza, elementi che appartenevano sostanzialmente alla sfera laica, non a quella ecclesiastica. E guardate che non solo le Fiandre avranno grande fascino nei confronti di quel tipo di monocromo, ma la stessa Firenze ne avrà incredibile passione. Se voi entrate in Santa Maria Novella, vi renderete conto, per esempio, che una delle cappelle che più ci restano impresse è la Cappella Bardi, proprio perché Filippo Lippi l'ha dipinta a monocromo, dando soltanto ai colori araldici dello stemma della famiglia Bardi la possibilità di subentrare o di, diciamo, interferire con il monocromo. Per cui c'è questo blu cobalto incredibile dei cappelli di alcuni personaggi legati appunto al blu dello stemma della famiglia Bardi in una cappella che è completamente seppia, seppia grigio. Più metteteci che il restauro l'ha considerevolmente fatta virare verso il grigio. Perché? Perché nel Rinascimento italiano, e questo non è improbabile che vada ad interferire, a influenzare appunto con la nascente pittura, chiamiamola così, fiamminga, o se preferite la pittura dei primitivi, che è un termine che io proprio non amo, interferisce appunto anche con la pittura delle Fiandre, perché è considerata memoria dell'antico, memoria di ciò che era stato nel mondo proprio classico, della Grecia classica più che di Roma. E quindi questo monocromo è un omaggio alla classicità, è una forzatura al gotico. Per cui è come se noi avessimo la struttura architettonica gotica e la realizzazione invece dell'ornato secondo il gusto del classico antico, del classico greco. Altra anomalia, che è perfettamente in linea con questo modo di pensare, sono le vetrate di questa chiesa. Eccessivamente trasparenti per essere una chiesa gotica. Non abbiamo vetrate policrome e capite che qui viene proprio meno lo spirito del gotico, perché tutta la struttura architettonica viene alleggerita per far sì che la vetrata possa esistere e io qui mi ritrovo ad avere una chiesa gotica dove la vetrata sembra un vetro di una finestra rinascimentale di una casa privata con le piombature e appunto la struttura che regga un vetro che però è trasparente. E questo non funziona. Vediamo che cosa sta succedendo a questo povero computer. Eccoci qui. Vedete che noi ci ritroviamo ad avere i vetri comunque piombati, e per piombati intendo proprio con una struttura in piombo che vada a sorreggere il vetro, che sono queste sorte di inferriate, no? Per usare un termine errato ma che vi rende l'idea, proprio dentro ai rettangoli della vetrata. È un controsenso terribile, perché ho tutta la struttura per il vetro colorato e non ho il vetro colorato. L'unica sezione colorata che abbiamo è quella della finestra centrale dell'abside. Guardate che questo non è concepibile, non è possibile. La chiesa gotica nasce in virtù della vetrata, la vetrata è quasi più importante della struttura architettonica. Non siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove le vetrate vengono sostituite da vetri bianchi perché sono crollate in seguito ai bombardamenti. Siamo nel 1425. Questa è una scelta di Van Eyck, che sceglie di non andare ad inserire il colore abbacinante proprio delle vetrate all'interno di questa chiesa. E anche questo deve essere un campanello d'allarme. Perché? Perché niente è mai per caso nella pittura fiamminga. Niente è mai volutamente fuori dalla regola nella pittura fiamminga. Ha sempre un suo significato. Cosa può aiutarci a capire il significato di questa assenza coloristica? Beh, esattamente l'elemento dove il colore invece della vetrata c'è. Tra l'altro, rispetto a tutta la grande cura che noi abbiamo, e ricordandoci che Van Eyck è un miniaturista, vero? Si è formato come miniaturista, noi ci ritroviamo ad avere, se notate, poca cura nella realizzazione di questa parte colorata. Sembra quasi una cosa fatta da un allievo di bottega, fatta in velocità, giusto per dare l'idea. E probabilmente Van Eyck vuole solo darci l'idea. Che parte della vetrata è? La parte cuspidata, la parte più alta. Quella che io posso vedere bene, meglio, se davanti vado a collocare questo crocefisso a livello di costruzione, vero? Se la vetrata fosse stata policroma anche nel basso, io avrei perso il dettaglio di questo blu a rifinitura della croce stessa. Per cui l'assenza della policromia dietro la croce è necessaria a evidenziare la croce stessa, altrimenti ci si sarebbe persa dentro ad una vetrata policroma. Inoltre, che forma ha il vetro colorato? Ha una forma trilobata, perché noi abbiamo in rosso e in blu dei trifogli, se volete. Inoltre, che cosa vediamo anche proprio della parte superiore di questa vetrata? Vediamo che è una trifora, o perlomeno che la finestra è ripartita in tre vetrate. E se andiamo a contare, là dove la vetrata ci venga presentata per intero è sempre tripartita. E qui vi aiuto io. I bracci di questa croce sono a loro volta lobati. Quattro, se noi lo guardiamo per intero il decoro, tre se guardiamo l'uscita proprio del braccio della croce. 1425. Questa trilobazione non fa altro che sottolineare, enfatizzare il credo trinitario. Guardate che non è così ovvio. Croci precedenti, e penso a croci realizzate prima del 1000, hanno uscite diverse. A seconda di come termina il braccio di una croce, io capisco tutta una serie, io, lo storico, capisce tutta una serie di situazioni. Area geografica, situazione politica, credo al quale la Chiesa è votato. Se esce con una tavoletta rettangolare, a colpo d'occhio, io so che quella croce, quando è stata realizzata, è stata pensata per una comunità cistercense. Quel tipo di croce verrà poi adottata, per esempio, e non a caso, dall'ordine domenicano. Voi direte, e cosa mi cambia? Quando è rettangolare? Sì, sì. Mi cambia un'infinità di situazioni questa cosa. Perché? Perché mi dà l'ubicazione esatta per la quale quella croce è stata realizzata e mi dice esattamente qual è il pensiero teologico, filosofico e politico di chi quel monastero, quella chiesa custodiva, utilizzava. Io so che in quella chiesa si praticava l'ordine domenicano. O io so che in quella chiesa i monaci potevano essere francescani. Oppure che quella chiesa, che la croce in cui quella chiesa veniva ospitata, erano saldamente legati al clero secolare, per cui al vescovo. Solitamente in quel caso la croce aveva un'uscita trilobata. Per cui questa cattedrale non è gestita da monaci, ma dal clero secolare. Ha un vescovo, e il vescovo non è un monaco, ma un prete, per capirci. Perché è a 4 e non a 3? Anche questo... Scusi, da un clero? Da un clero secolare, cioè dal clero che è costituito da, appunto, sacerdoti, non da monaci, per cui non da frati, domenicani, francescani o cistercensi, o benedettini che siano. Perché l'ornato è a 4? Per cui, giusto per farvi capire, io potevo avere... Di solito non disegno mai, perché so di non essere capace, ma... Potevo avere, no? Una croce. Il primo che racconta quel che vede ne subirà le conseguenze. Con questo tipo di uscita. Ora lasciamo perdere, vero, la parte superiore dove io solitamente ho l'iscrizione Henry. E lasciamo perdere anche quelle croci dove qui posso avere dei personaggi. A me interessa la forma. Questo tipo di croce è legata proprio all'ordine cistercense, per cui di San Bernardo, che era un ordine benedettino, ma che ce l'aveva a morte, diciamo, con quella parte dei benedettini che avevano fatto dell'oro, del denaro e della magnificenza il proprio credo. San Bernardo richiama all'ordine i benedettini e dice: rifacciamoci a quello che diceva San Benedetto. Ora et labora, sì, ma non per arricchirci. Ora et labora al servizio del popolo. E questo tornare alle origini, alla semplificazione, impose anche un ordine all'interno della Chiesa, l'assenza di affreschi, per esempio. La pulizia architettonica, il fatto di avere delle cappelle fatte in un modo anziché in un altro. non a caso quadrangolari o rettangolari. Per cui io mi ritrovo anche nella struttura architettonica della chiesa ad avere una navata centrale e, diciamo, la zona delle cappelle utilizzate e gestite proprio come la forma della croce. Santa Maria Novella è una di quelle chiese, per esempio. Le cappelle sono tutte rettangolari, a destra e a sinistra dell'abside. Questo ha una forte impronta legata proprio ai cistercensi. Santa Maria Novella fu poi una chiesa domenicana. I domenicani infatti fecero propria l'architettura cistercense. I crocifissi che noi troviamo per questo tipo di chiese hanno questo tipo di braccio, di terminazione. Se invece la croce finisse in modo svasato, apparterebbe ad un'epoca assolutamente precedente. Sarebbe una croce longobarda. Con l'avvento appunto del credo trinitario, o meglio del dogma trinitario, guardate che arriva tardi, siamo intorno al 1000, e in alcune situazioni io potrò avere la trilobazione. Ecco, qui proprio si vede che non sono capace. La trilobazione. Anche le absidi a livello architettonico infatti cambiarono. Da un'unica abside poterono diventare tre. Sant'Ambrogio a Milano. Per cui anche a livello architettonico l'abside è specchio di ciò che a livello dogmatico cambia nella storia della Chiesa. E quindi io passo da un'unica grande abside a tre absidi, una centrale e due laterali, semicircolari. Lo specchio io posso averlo anche nella fuoriuscita del braccio della Chiesa. Ma il crocifisso che noi abbiamo è sì lobato, ma anche una quarta lobazione interna. Sì, proprio la prova del 9 che non so disegnare. Guai a voi se dite a qualche docente di disegno o di anatomia quel che vedete durante questo corso. Alla lavagna, naturalmente. Questa quadrilobazione è legata all'uomo. Tutto ciò che è quattro rappresenta sempre a livello teologico la caducità, la finitudine. E guardate che può essere una quadrilobazione, ma può essere anche un quadrato. Non mi cambia. L'idea è che questo quattro è specchio dell'uomo, che ha, se ci pensate, un lobo in più rispetto alla perfezione di Dio, ma questo lo rende finito, a differenza del cerchio o del triangolo invece, che appartengono assolutamente alla divinità. E guardate che questo ha anche una valenza musicale per l'epoca. Il 4 era considerato un tempo imperfetto. Proprio la dicitura della misurazione musicale dell'epoca ce lo dice. Mentre il tempo in 3, la scansione musicale in 3, era considerato un tempo perfetto. Ora capite che se questa differenza fra 3 e 4 io la trovo in musica e ha una sua peculiarità e abbiamo proprio documentazione scritta di questo, figuratevi se non è la fuoriuscita del braccio di una croce. Per cui questo è un altro campanello d'allarme e capite che stiamo analizzando praticamente 10 centimetri di tavola. Mi ricorda che a crocefiggere Cristo furono gli uomini, non fu un volere divino. E che quella croce venne proprio inchiodata, messa insieme da degli uomini. Anzi, è proprio a causa della caducità della non perfezione dell'uomo, se Cristo è stato crocifisso, e peggio ancora, se Cristo ha avuto la necessità di nascere, soffrire e morire. Perché se l'uomo fosse stato perfetto, se non avesse mancato a partire dal peccato originale, questo supplizio non avrebbe avuto motivo d'essere. Oh, pensate quanta filosofia teologica, o se preferite teologia filosofica, abbiamo solo nella fuoriuscita del braccio di una croce. Perché non abbiamo la policromia in tutte le altre finestre? Perché altrimenti io perderei, esattamente come all'interno della Cappella Bardi in Santa Maria Novella, io perderei completamente l'importanza che questo rosso e questo blu hanno all'interno di tutta la tavola. Se avesse realizzato le vetrate policrome come sicuramente erano all'epoca, noi perderemmo, vi ripeto, l'idea di insieme, andando a togliere importanza non solo a quel piccolo lacerto di colore laggiù in fondo, e se ci pensate la parte principale di tutta la vetrata della chiesa, ma perderei anche quello che è la cromia che è stata attribuita alla Madonna, perché si ritroverebbe dentro ad una sorta di caleidoscopio di colori, perché ricordatevi che una chiesa gotica non ha solo le vetrate colorate, ma ha tutta la luce all'interno della chiesa colorata, perché la luce filtra attraverso il vetro che è policromo, e quindi tutto ciò che va a proiettarsi come raggio luminoso all'interno della chiesa è a sua volta policromo. Tra l'altro, per l'epoca, con tutta una serie di studi sul dove il colore dovesse cadere rispetto all'affresco o rispetto all'arazzo. Di conseguenza, questa totale assenza di colore in quello che è il contenitore di Maria serve per evidenziare il colore di Maria, altrimenti io l'avrei perso. E non a caso, che colori indossa Maria? Per carità, i colori canonici, ma colori che sono esattamente i colori che noi abbiamo visto in quel piccolo lacerto di vetrata, il rosso e il blu. Tra l'altro, un abito incredibilmente sontuoso, ricchissimo. Da cosa lo capisco? Beh, l'abito rosso che indossa è molto arricciato in vita, adesso poi vedremo i dettagli, ha maniche gemmate, per cui ha proprio delle pietre preziose cucite lungo i bordi, sia delle maniche che del collo, è ricamata in oro, sia nella parte superiore, vedete proprio intorno al collo, nella parte alta, ma anche lungo tutto il manto blu, e sul fondo, guardate, poi vi faccio vedere proprio il dettaglio, è anche ricamata in oro la tunica in questa parte finale. E anche dalla parte finale io capisco che la tunica rossa molto probabilmente è in velluto, e il velluto di quest'area geografica è velluto di seta, perché è velluto che ancora oggi è preziosissimo. Ed è molto ampia, altrimenti io questi canneggi non li avrei, queste pieghe, perché proprio determinano la quantità di tessuto. Lo stesso possiamo dire per il manto blu, perché se notate è un ampio manto che ci fa capire che è tanta la stoffa che è stata utilizzata. Addirittura abbiamo delle riprese nella parte superiore della manica, delle arricciature per capirci. Perché insisto sulla quantità di tessuto? Perché a quantità di tessuto corrisponde ceto. Tanta più stoffa ho addosso, tanto più sono ricco. E questo ci parla di quella sovrapposizione tra immagine reale e divinità di cui dicevamo anche la settimana scorsa. Guardate che c'erano dal 1200 in poi proprio delle leggi scritte sulla quantità di tessuto che si potesse indossare e anche una casistica ben precisa sul quando indossare tot metratura di tessuto. Parate, tornei, come pubblico intendo, non come partecipanti al torneo, funzioni religiose, matrimoni, funerali. Abbiamo proprio delle leggi scritte, diciamo proprio dal 1200 in avanti, e penso a tutto l'ordinamento normanno su questo, che condizionano in modo proprio tassativo quanti partecipino a queste situazioni. Questo tipo di abito era un abito assolutamente legato ad una grande occasione ed era sicuramente una metratura che soltanto un sovrano o la moglie di un sovrano potessero indossare. E questi due tessuti non a caso sono rosso e blu. Rosso, che se vi ricordate dicevamo essere il colore che appartiene a ciò che è terreno, all'immagine umana, e blu che invece appartiene all'immagine divina. Questo mi dice un'altra cosa importantissima, che questa Maria è stata dipinta secondo lo schema del colore cattolico, non protestante. Dicevamo la settimana scorsa, se vi ricordate, che a seconda dei colori che noi vedremo in Maria, a colpo d'occhio riconosceremo se siamo in una realtà protestante o cattolica. Questa è cattolica. Gli angeli, che forse non avete notato, impossibile, no? Perché proprio sono microscopici nella tavola, che sono tra l'altro vitali per lo sfondamento prospettico, indossano esattamente rosso e blu e sono meravigliosamente vestiti uno al contrario dell'altro: tunica rossa e manto blu uno, tunica blu e manto rosso l'altro. Le ali sono portate da uno soltanto e sono rosse. Guardate che le ali rosse solitamente sono dei cherubini, per cui nella gerarchia degli angeli il livello più alto in assoluto. Perché soltanto uno? Forse, ma prendetela come una mia ipotesi, perché non è che abbiamo spiegazioni scritte. Forse perché l'altro, vestendo di blu, è già un'entità divina di per sé, non ha nulla di terreno e quindi probabilmente è considerato già puro spirito e quindi le ali teoricamente non gli servirebbero. Ma è una mia ipotesi, prendetela per quello che vale. La corona, vediamola meglio, prendiamo un'immagine specifica. Anzi, vediamo meglio gli angeli, che magari con un'immagine diretta siete più... Eccoli qua. Vedete? Tra l'altro, sono anche decorati con dei piccoli colpi di pennello in oro. Gli abiti che indossano sembrano paramenti sacri. Per forza, questo accadrà molto spesso. Perché nei drammi liturgici, per cui in queste sacre rappresentazioni di cui già vi accennavo la settimana scorsa, essendo i chierici a interpretare i vari personaggi, i chierici indossano i paramenti che solitamente utilizzerebbero durante la messa. E quindi portano proprio tuniche che sono quelle che vengono utilizzate normalmente dal clero. Alle loro spalle, e qui sì, noi continuiamo a ricordarci che siamo in presenza di uno straordinario miniaturista, e guardate che stiamo parlando di 4 centimetri di pala d'altare, vero? Noi abbiamo una ricostruzione meravigliosa di una pala d'altare aurea in oro, collocata assolutamente nella parte più intima della chiesa, cioè proprio dentro l'abside. Vi faccio vedere il quadro per intero, così continuate ad avere un punto di riferimento. Vedete dove è messa questa pala d'altare? È qui in fondo. È dietro proprio questo muro di chiusura della parte absidale. Ed è perfettamente in asse con la vetrata policroma, qui sotto. Guardate che questo è un muro, non di fantasia, è un muro reale che veniva costruito in muratura proprio o in ferro per tenere la parte del transetto, per cui la parte dell'abside dove c'era il coro, dove il clero, che fossero monaci o sacerdoti, poca differenza faceva, chiuso unicamente per il clero, in modo da impedire ai fedeli di poter girare liberamente all'interno della chiesa. Solitamente queste aperture che vedete erano proprio chiuse da dei cancelli che venivano aperte solo in determinati momenti per consentire magari di andare a pregare dentro l'abside, perché magari erano custodite delle reliquie o degli elementi particolarmente cari alla venerazione. Per cui era proprio un muro, quello che resta dell'antica tradizione dell'iconostasi, per cui della sequenza di immagini sacre che fanno proprio da muro divisorio tra l'assemblea e il celebrante. È in quest'area, in questa zona, che avveniva la consacrazione, per cui in una zona segreta, chiusa, memoria probabilmente del Sancta Sanctorum degli antichi templi antichi, greci, egizi, romani e quant'altro. La corona, vi dicevo, oltre a questa micro pala d'altare, là dove appunto si diceva messa e quindi il celebrante ufficiava, quindi l'altare era lì dentro, non a vista. La corona di questa Maria, guardate un po', è estremamente ricca ed estremamente in linea con l'architettura della chiesa, traforata, per cui noi non abbiamo una fascia in oro pieno, ha tutta una serie di terminazioni che ricordano dei gigli a tre petali, per cui ritorna quest'idea del tre che abbiamo lasciato sia nella vetrata che in parte nella croce. Se notate, le gemme che ornano questa corona non hanno niente a che vedere con quella che è la tradizione medievale, che avrebbe invece previsto una gamma di pietre preziose, regolate secondo dei criteri canonici ben precisi. Sulla fronte di Maria, se questa fosse una corona medievale, noi avremmo probabilmente un'acqua marina, simbolo di purezza, di leggerezza, di trasparenza. O avremmo, meglio ancora, un cristallo di rocca. Se fosse una corona medievale in testa al Cristo, la pietra centrale sarebbe uno smeraldo. Se fosse una corona imperiale medievale, la pietra centrale proprio al centro della fronte sarebbe uno smeraldo, senza ombra di dubbio. Anche qui abbiamo una fonte letteraria. A determinare la gerarchia della posizione delle pietre, e chi ha fatto medievale con me, poveretto, lo sa, non ha memoria di più, era, pensate un po', la classificazione delle pietre preziose che fa Giovanni nell'Apocalisse. Per cui la gerarchia aveva una sua motivazione d'essere. Lo smeraldo era considerato la pietra più preziosa in assoluto, e anche qui apriremo un capitolo che occuperebbe l'intero corso. Sopra, come importanza, avevamo le perle, che non sono pietre. Per cui più importante dello smeraldo nella gerarchia, nell'Apocalisse di Giovanni, abbiamo, sopra lo smeraldo, abbiamo le perle. E sopra qualsiasi altra cosa abbiamo l'oro, luce infinita di Dio. Da qui poi, per esempio, tutta la necessità e l'esigenza di andare a utilizzare l'oro nei mosaici all'interno delle grandi chiese antiche, bizantine, paleocristiane e così via. Ma da qui anche l'utilizzo di tutti i paramenti in oro per le funzioni sacre, ancora oggi. Perché nella gerarchia di Giovanni l'oro è il materiale più nobile in assoluto. La Gerusalemme celeste, secondo la dicitura giovannea, è in oro. Quindi questa corona è una corona assolutamente proiettata in avanti. Perché? Perché noi sostanzialmente qui vediamo moltissimi smeraldi e rubini. Abbiamo due smeraldi probabilmente, forse non sono neanche tre, non sono neanche smeraldi. Sono delle pietre semipreziose. Uno, due e tre. Certo è che la loro posizione, se andiamo proprio a cercarcela, va a creare una triangolazione. Ma guardate che questa forse è un po' una forzatura. A colpo d'occhio, soprattutto se io mi guardo la tavola per intero, neanche mi accorgo che ci sono questi tre smeraldi o queste tre pietre semipreziose. Il colore che mi attira immediatamente è costituito da zaffiri e rubini, il blu e il rosso, e quindi ritorna ancora una volta, oltre naturalmente all'oro e alle perle, perché tutto quello che vedete bianco noi dobbiamo immaginarlo essere di perla. E per quanto riguarda appunto la presenza dell'oro e delle pietre, andiamo a vederci anche l'orlo di questa tunica rossa. Vedete come sia proprio ricamato in oro, vedete anche come il manto blu sia bordato volutamente in oro. Inoltre il ricamo sia della smerlatura, per cui della parte superiore, che del collo che ha sulla tunica, riprende in modo elegantissimo la parte superiore della corona. Per cui la corona e l'abito nascono pensati, diciamo, sullo stesso disegno, che è esattamente in linea con quello che è il decoro minuto, il decoro più leggero dell'architettura della chiesa stessa. Eccolo qui, vedete? È stato semplicemente capovolto, è stato semplicemente adattato. Se preferite, è come se si utilizzasse l'idea della medesima bordura che a seconda della situazione in pietra o in tessuto o in ricamo venisse girato, aperto, piegato, plissettato. Niente, vi ripeto, è lasciato al caso, mai in una tavola fiamminga. Questo dà una linea di incredibile uniformità a tutta l'opera, perché tutto l'ornato, che sia architettonico, che sia legato al costume, che sia legato al gioiello della corona che lei indossa, o che sia legato alle vetrate, ha la stessa matrice, ha un pensiero unitario, uniforme. E guardate che questo è proprio tipico di un periodo che va, a seconda della zona geografica in cui ci troviamo, dal 1300 in poi. È l'idea della signoria che dicevamo, no? Il riordinamento della piazza, le facciate che abbiano un senso tra di loro, le sale di un palazzo che abbiano un senso logico tra di loro, che siano dei labirinti però con una sorta di guida, di senso logico e anche un po' iniziatico che vi guidi tra una stanza e un'altra. Van Eyck assolutamente si appropria di questo e lo applicherà sempre all'interno delle proprie opere. Altro elemento che parte dal mondo bizantino proprio. Quest'orlo non solo è ricamato, ma è anche scritto. La parola che continua a ricorrere per quel poco che noi possiamo vedere è solus. Guardate che fa parte proprio di un'invocazione mariana. Solus tuus, Marie. Cioè appartengo solo a te, Maria. Pensate un po'. Questo è un motto mariano che nasce proprio intorno al 1300 e che Papa Giovanni Paolo II fece proprio in prima persona. Totus tuus, Marie. È lo stesso. Solus tuus, totus tuus. Cioè solamente tuo o completamente tuo, Maria. È un modo per affidarsi da parte del cattolico alla totale protezione di Maria, affinché Maria faccia da tramite tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e Cristo. Perché vi dico che si perde nel mondo bizantino questa tradizione? Perché la tradizione di scrivere, di ricamare invocazioni o simboli particolari nelle vesti nasce a Ravenna, o perlomeno noi ne abbiamo traccia a partire dal VI secolo d.C. a Ravenna. Se ci pensate, è un po' lo specchio di quello che noi abbiamo nei mosaici quando si sente l'esigenza di scriverci il nome del santo o il nome della città. Venne praticamente riportato anche sugli abiti, solitamente nelle bordure, nelle parti più basse, quelle che con più facilità potevano essere a vista. Controsenso, direte, no? Invece no. Perché? Perché se io facevo ricamare un'invocazione nella sottogonna, la sottogonna poteva essere a vista se io sollevavo le sottane per fare una scala, per esempio. Per cui era la parte con più facilità gli altri potevano vedere. E capite quindi che sono invocazioni che si portano addosso un po' come elemento votivo, ma che servono anche per far capire agli altri che io sono una persona devota. Non a caso, solitamente questo tipo di ricamo noi lo trovavamo nelle tuniche femminili della famiglia imperiale. Se noi andiamo a Ravenna, in San Vitale, e andiamo a vederci i famosissimi mosaici della famiglia imperiale, noi vedremo che la tunica di Teodora è ricamata nella parte inferiore, cosa no, che dicevamo quasi mai viene raccontata a scuola. E nella famosissima tunica del mosaico, dove lei ha questa incredibile corona con le perle e tutte le pietre posizionate secondo lo schema dell'Apocalisse di Giovanni, nella parte terminale della tunica lei, pensate un po', ha ricamati i tre re magi. Per forza, perché tutta quella scena dentro l'abside è una scena di dono all'altare. Lui ha una ciotola in mano, lei pure. Stanno portando doni al Cristo, esattamente come fecero i re magi prima di loro. Re, non a caso. Di conseguenza, questo tipo di ricamo che noi troviamo in Van Eyck è memoria di quell'antica tradizione. Capite che in un periodo in cui il popolo non sapeva leggere, mi riferisco al VI secolo d.C., l'immagine aveva un ruolo fondamentale. Ecco che Teodora, anziché avere un'invocazione, un motto scritto, ha un'immagine, imagi. Le stesse pietre noi le troviamo, vedete, sulle maniche e intorno al collo. Qui gli smeraldi, meglio, io credo appunto, vi ripeto, siano pietre semipreziose verdi, ma poco ci cambia, l'idea del verde che comunque è importante, sono più presenti. Ma dobbiamo proprio andare a cercarcele per riuscire a trovarle. Perché ricordatevi che sempre, è vero, nell'immagine d'insieme sono micro dettagli. Capite che io la bordura devo proprio andare a cercarmela, vero? Vedendo l'immagine per intero. Sono esattamente le stesse pietre, stessa forma, stesso taglio, stessa lavorazione che noi abbiamo lasciato nella corona. Anche tutta la dentellatura non è altro che una variante di quella che noi abbiamo visto nell'orlo e di quello che noi troviamo appunto nel decoro della chiesa. Atto incredibilmente confidenziale, perché lei non guarda né noi né il bimbo, guarda oltre. Atto incredibilmente confidenziale del bimbo è il fatto di aggrapparsi a questa scollatura. E qui dobbiamo ragionare come uomini del 1400. Questa è la classica posizione di un bambino che ancora venga allattato dalla madre. Ma non rientra nella iconografia canonica del rapporto tra Maria e il Cristo. Le Madonne che l'hanno preceduta possono allattare, stando sul trono, il bambino, ma il bambino non si prende confidenze intime con la madre. Questo è un altro campanello d'allarme che mi dice sì che sono in una realtà cattolica. Ma è un cattolicesimo che deve fare i conti con il protestantesimo. E più si andrà avanti nel tempo, più in quest'area geografica il cattolicesimo allargherà le maglie, oltre alle demenzialità delle torture di cui si accennava nelle lezioni precedenti. Allargherà le maglie, nel senso che dovrà, per sopravvivere, per continuare ad esserci, modificarsi parzialmente e assomigliare un po' al mondo protestante. Ancora oggi lo fa. Questo atto intimo di proprio legame personale tra il bambino e la madre ci racconta proprio questo, cioè il fatto che siamo in un'area geografica dove il cattolicesimo ha problemi con il protestantesimo e quindi deve dimostrarsi umano, deve dimostrarsi più, diciamo, casalingo, nel senso alto del termine, deve essere più vicino alla normalità, alla quotidianità. Lei porta i capelli sciolti, cosa gravissima. Altra cosa che noi non riusciamo assolutamente a capire a colpo d'occhio. Guardate che i capelli sciolti appartengono al XX secolo. Una donna per bene avrebbe avuto capelli lunghi, ma sempre raccolti. Le vostre bisnonne, se portavano capelli lunghi, rigorosamente in pubblico si sarebbero fatte vedere con i capelli raccolti. Trecce o chignon. I capelli sciolti appartenevano all'intimità nuziale, matrimoniale. Era il marito che vedeva i capelli sciolti, era il figlio che vedeva i capelli sciolti. Mai la comunità. Sarà, sappiatelo, un elemento incredibilmente progressista, rivoluzionario e femminista. Dobbiamo aspettare gli inizi del 1900 e già era un azzardo. Le prostitute tenevano i capelli sciolti, proprio perché era un elemento di intimità. Capelli sciolti e scollatura, forse vedevano i capelli sciolti un azzardo maggiore rispetto alla scollatura all'epoca. Le streghe portavano i capelli sciolti, cioè coloro che erano borderline, coloro che erano fuori dalle regole ufficiali del buon gusto o della normalità. Perché questa Maria allora ha i capelli sciolti? Vi ripeto, perché siamo in un'area protestante e questo cattolicesimo deve dimostrarsi umano, deve dimostrarsi familiare. Ecco che allora una Maria con i capelli sciolti non è una Maria nella sua ufficialità, è una Maria madre che ha un rapporto molto intimo con il figlio e che è come se fosse all'interno della propria casa. E se ci pensate, la Chiesa è idealmente casa sua. Di conseguenza, anche questi capelli sciolti ci raccontano di un mondo che inevitabilmente si deve adeguare a quello che è l'avvento protestante. L'avreste mai detto? Ecco che noi dobbiamo tener conto di tutta questa serie di elementi per poter leggere questa tavola. Altrimenti quello che vediamo non è altro che una Madonna dentro ad una chiesa gotica. Punto. Ma capite che invece è un mondo incredibile che ci parla di amore della tradizione antica, i monocromi di tutto il fondo. Una delle prime straordinarie forzature da parte dell'artista nei confronti della realtà. Van Eyck non dipinge le vetrate così come sono, le modifica, le rende trasparenti, per aiutarmi a capire il contesto. Importanza vitale di questi due colori, rosso e blu, i due colori reali, vero? I due colori che andranno d'ora in poi sempre a distinguerci i soggetti sacri, Cristo, Maria, Dio. Colori che volutamente sono solo due in tutta l'opera, tranne ovviamente queste piccole chiazzette di verde che abbiamo dovuto andare a scovarci. Un modo straordinario di gestire il colore per rendere importante il colore stesso. I due colori della regalità io riesco a riconoscerli perché ho tolto tutti gli altri colori. Altrimenti io non li coglierei nella loro brillantezza e tra l'altro non riuscirei a rendermi conto che sono gli unici ad essere presenti nell'opera. Sono colori che vanno a sottolineare una serie di cose: la sua corona, i suoi abiti, la parte superiore della vetrata, gli angeli dentro alla zona appunto in cui si effettua la consacrazione. E altro elemento, ultimo, è la luce in tutto ciò. Una luce che risente in modo strepitoso di quella filosofia di cui si parlava la settimana scorsa. Il fatto che Dio, essendo infinita luce, doni ogni oggetto di una scintilla vitale. L'idea, come abbiamo visto la settimana scorsa, no? Di quelle caraffe tirate a lucido anche nella miniatura. L'idea che troveremo da qui in poi in tutti quelli che sono gli oggetti presenti nelle tavole, le caraffe, i bicchieri, i cristalli, i vetri, che riflettono luce, che sono specchi anche. Proprio per questa filosofia vi dicevo che Dio è presente in ogni elemento creato e la sua presenza è determinata dalla quantità di luce che questo oggetto possa emanare, che possa riflettere all'interno di una stanza. Ecco che la vetrata bianca non fa altro che enfatizzare questa luminosità, questa presenza di luce, che, fate attenzione, viene proprio utilizzata volutamente come riflesso bianco e parzialmente colorato, ma sempre in rosso e in blu, sia sulle parti architettoniche, sia sulla pavimentazione, sia, guardate un po', su quella che solitamente non viene nemmeno inserita nei disegni, nelle riproduzioni, che è in un certo senso la finta cornice dell'opera. Questa che vedete non è una cornice in legno, è una cornice che è stata dipinta da Van Eyck intorno alla tavola. La cornice, proprio per volontà di Van Eyck, è illuminata, come se la cornice stessa potesse prendere luce dalle vetrate della cattedrale, come se fosse una sorta di finestra dentro la cattedrale stessa. Capite che questo ci cambia il punto di vista? Perché se la vetrata della cattedrale può illuminare la cornice, vuol dire che questa cornice è dentro la chiesa. E io che guardo la cornice, a mia volta sono dentro la chiesa. Per cui il discorso che ci facevamo sulla posizione dell'osservatore rispetto alla tavola consiste in questi piccoli dettagli. Io, osservatore, sono nella tavola, sono dentro l'opera. Perché l'opera ha delle anomalie rispetto a quella che potrebbe essere una tavola fiorentina o veneziana, che vanno giustificate solo con questo rapporto intimo, diretto, personale tra l'opera e chi la guarda. Altrimenti non avremo proprio motivo di avere questo tipo di trompe l'œil, perché se ci pensate è questo, no? È quello che poi noi invece andremo ad enfatizzare dalla metà del 1500 in poi, ma in contesti laici, all'interno delle ville, dei palazzi, non tanto all'interno delle chiese, non nei soggetti sacri, ma nei soggetti laici. Penso ai saloni d'onore, penso agli affreschi all'interno delle camere da letto. Il gioco di specchi noi lo troviamo in altre realtà, non all'interno dello spazio religioso. Questo è un altro modo per familiarizzare il sacro, necessario, assolutamente necessario alla sfera cattolica, vi ripeto, in un'area che risente in modo incredibile della ventata protestante. Ultimo dettaglio, e poi facciamo pausa caffè perché qualcuno non ce la fa proprio più, vi vedo. Le chiavi di volta di questa cattedrale sono in blu e rosso, ma sono micro dettagli. Come se l'apice della forza all'interno di questa struttura architettonica fosse comunque determinato da due colori che appartengono alla sovranità, alla regalità, che passa, che si sovrappone alla sfera del sacro. Capite quindi che per affrontare un'opera, e noi stiamo solo vedendo, vero, la parte generale di quest'opera, non è sufficiente conoscere l'arte fiamminga. Per capire l'arte fiamminga dobbiamo continuamente, costantemente guardare indietro più che in avanti. Non perché siano dei conservatori incapaci di fare rivoluzione, anzi, perché sono coloro che attraverso il passato cambiano la storia dell'arte, utilizzando, avvalendosi di un medioevo che è più filosofico che storico, che conserva quella che è la matrice, diciamo, proprio intellettuale del medioevo, non quella smaccatamente evidente. E metteteci inoltre che questa è una tavola dipinta ad olio, per cui anche tutti questi effetti sono creati, sono realizzati attraverso velature, attraverso sovrapposizioni di strati, cosa che la tempera non potrebbe più consentire, se non con grande difficoltà. E ricordatevi che, come dicevamo già la settimana scorsa, l'olio, proprio per la sua matrice, è un colore luccicante, che emette luce, brillante. E quindi, in un certo senso, la luce interna, dipinta, gioca, occhieggia a quella che è la luce che la tavola stessa riflette, in quanto tecnicamente realizzata con un colore brillante. E quindi la tavola stessa, agli occhi di Dio, è una creazione buona, altrimenti non sarebbe luccicante, non sarebbe brillante. E dopo questo sproloquio infinito, vero, che vi ha portato tra Medioevo e 400, ci prendiamo vi prendete una pausa caffè di 10 minuti? Ci vediamo alle 3 meno 5? Scusi, vabbè, adesso di prendere film. Ce l'ha qualcuno di voi? Per cortesia, chi ha il blocco delle firme, lo faccia girare, perché così tutti possono firmare. Voleva chiedere qualcosa, signora, prima. Sì, per il fatto che la cornice è disegnata in legno, io non mi vedevo dentro la chiesa, mi vedevo fuori. Però capisce, la luce dentro illumina anche il cuore. È questo il legame, perché ovvio la cornice è sempre un limite, vero? È sempre una finestra. Ma il fatto che la luce di dentro illumini il fuori, questo è qualche cosa che noi ancora non avevamo visto. Noi iniziavamo ad avere i putti che sbordavano dalle cornici, ma non la luce interna che venisse fuori. Questa è proprio probabilmente una peculiarità loro, che poi ci influenzerà tantissimo, ma proprio tantissimo, in tutto il Cinquecento. Ok, benissimo, grazie. In fondo a questo blocco di film ci sono dei fogli bianchi e continui uno, anche perché insomma sono due le lezioni di classe di 60 anni, quindi mi raccomando recupera le tue. C'è un massimo che è per noi. Quindi io ho soltanto una lezione. Va bene, c'è una lezione, si prende una lezione che non parliamo. Sai che. sì, no, sono sempre certo. Per sapere l'ultima volta morirai. Eh? Per sapere l'ultima volta morirai. Anch'io spero gli occhi. Dimmi. Sì. Questo anche è un medievale moderno, sì. Ma un'altra lettura quando l'abbiamo moderna, io ce l'ho altro posto che è nel tempo, non so cosa faccio, mancare un po' là, un po' qua, sì, però la mia cuore va bene, sì, almeno un'ora di siete a passeggio. Sì, perché l'anno scorso io ho seguito quello con la storia dell'arte con lei, ma perché avevo la tesi, ho seguito 4 settimane dopo non sono andata più, così devo fare tutte e due adesso, nello stesso semestre. Allora, se vai in un'ora, ma che casomai ti fai passare le registrazioni e poi ti cerchi le opere. Sì, sì, va bene, certo, parlo con qualcuno attendersi. Sì. Grazie. Prego. Purtroppo ha firmato? Sì, ho gli altri corsi, un altro corso adesso, anzi due. Questo semestre è un disastro in questo senso. No, devo dire. Professoressa, lei ha detto che metteva gli avvisi su Facebook. Sì, non ho messo scelta ancora, mi dispiace. Okay, perfetto. Non ho messo niente ancora. No, perché io l'ho presa come amicizia dei perfetto. Contatti, quindi arriverà quando... Okay. Assolutamente, appena un attimo. Ok, sì, sì. E soprattutto un attimo a casa. Inserisco tutto quanto. Penso assolutamente entro questa settimana. Salve. Salve. Il viaggio per anche il suo campionato è stato. Sì. La disponibilità c'è e quindi si tratta appunto di capire quanti saremo effettivamente e di capire quanto costerà. Invece la professoressa parla di spesa. Ha detto che dava una dispensa. No. Io di solito non l'ho mai dispensa, la bibliografia. La bibliografia io pensavo fosse già pubblicata, non c'è ancora. E quindi dicevo appunto appena rientro a casa la metto anche su Facebook così potete scaricarvela. Benissimo. E poi magari ne teniamo un paio di copie a disposizione in aula. Perché settimana scorsa tutto quello che era stato affisso alla porta è stato strappato. Mio e anche del professor Curto, quindi siamo ritrovati senza cose da me. Va bene, benissimo, grazie. Prego. Sono in ordine alfabetico, eh? Meraviglia. Non sembra, ma la cattiveria fortifica nell'organizzazione. dovete vedere un video, non ha detto niente. Ah sì, ah, ma quello che ha fatto questo. La Cicco è il film. Sì, certo. No, no, la razza è mai. Ma lo sapete che esiste il Calepan? Vabbè, i cinesi sono pazzi. Sì, hanno fatto un po' di info. Se tu scrivi Calepan, hanno fatto un po' di info. Ciu-ciu. È un panda, per esempio. È un giusto. Agli occhi neri. Devi firmare. Ti giuro, è cosa. È più fatto. È bellissimo, però. Non è normale. Ma questa roba la oppure la sto. No, no, no. No. Ci sono solo tanto che metti. Cioè, come se fosse comprato un ciuccio. Sì, ma hanno fatto anche il cane tigre. Cioè, è assurdo. No, il cane tigre, ti giuro, fa storia, perché è un cane. È una tigre. No, no, no. È un cane, però arancione, strisce. È proprio la tigre. Ma si spegne mai? Ma come fa durante la lezione? Muore di dolore. Parla da sola mentalmente. Cioè, è una cosa. Chieda a lui che abbiamo fatto il liceo insieme. L'ho sempre visto. Povera anima, sei un sopravvissuto, sei. No, ma anche non è che a parlare. Ma io non l'ho ancora sentito, sinceramente, lui in tre lezioni. Va bene. Tutti avete già firmato? No. Grazie. Sì, sì, sì. Un incubo è stata. Mi ascolta. E fai il trattenimento. Quindi questo non sono sicuri su. Lei la prima lezione aveva detto che lo credivamente erano tre. Sono quattro datate, Datate. Ah, datate. No, no, quindi sono certe, non sono datate. Sono state datate a posteriori, da storici dell'arte dopo il 1800, per cui sempre con il beneficio del dubbio.